Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Dopo una lunga pausa, chiamiamola estiva, riprendiamo e vorremmo parlarvi oggi di notizie al futuro, di reperti da museo e di reperti urbani, nonché di macchine parlanti.